Cerchiamo di ricostruire alcuni dati sul costo della guerra in Ucraina, che proprio oggi è arrivata al suo terzo anno di tragica continuità. Partiamo da alcuni dati quantitativi. Innanzitutto, il costo della guerra è un costo di vite umane. È difficilissimo valutare dei dati. Il presidente ucraino Zelensky un anno fa ha detto che 31.000 militari ucraini erano stati uccisi. Le stime americane sono che le vittime militari russe siano 300.000 complessivamente tra morti e feriti, quindi dati molto gonfiati, però è difficile valutare quali siano effettivamente le vittime. La missione delle Nazioni Unite sui diritti umani ha documentato l'estate scorsa che in Ucraina ci sono stati quasi 12.000 civili morti e 25.000 feriti dall'inizio della guerra. Quindi i dati, l'ordine di grandezza è di questo tipo. Però l'Ucraina ha avuto un effetto drammatico in termini di spopolamento. 6 milioni di ucraini sono scappati all'estero, 4 milioni sono rifugiati in altre parti del paese, all'interno del paese. Tra questi, come sapete, ci sono moltissimi giovani che hanno scelto di rifiutare di partecipare alla guerra e di evitare il servizio militare trasferendosi all'estero, anche in altri paesi europei, soprattutto in Germania, ma anche in Italia. Le stime delle Nazioni Unite sono che la popolazione dell'Ucraina è diminuita di 10 milioni, cioè di un quarto, dall'inizio dell'invasione, e ovviamente c'è stato un calo drammatico delle nascite e delle dinamiche demografiche. Nel complesso, l'economia ucraina oggi è ancora meno dell'80% delle dimensioni di prima dell'invasione, ha avuto una gravissima caduta all'inizio del 2021, poi una piccola ripresa, ma sostanzialmente è un'economia che non funziona, è completamente tenuta in vita dai trasferimenti finanziari dell'Occidente, che garantiscono le entrate dello Stato, non solo l'acquisizione di armi, ma il funzionamento complessivo dell'economia. Abbiamo poi una stima della Banca Mondiale su quanto è costato in termini di distruzioni materiali tutto questo. La stima, questa è più vecchia, di 2 anni fa, era di 150 miliardi di dollari delle distruzioni materiali, e le Nazioni Unite prevedono sostanzialmente che siano necessari quasi 500 miliardi di dollari per ricostruire i danni provocati dalla guerra. 500 miliardi vuol dire più di due volte e mezza il prodotto interno lordo annuale dell'Ucraina, quindi è una distruzione che ha devastato drammaticamente le infrastrutture e il patrimonio immobiliare, tecnologico, produttivo del paese. Che cosa è successo in parallelo in Russia? Ci sono alcune stime americane che il costo complessivo per la Russia sia stato molto pesante rispetto alla traiettoria di crescita precedente, cioè quello che avrà la Russia da qui all'anno prossimo rispetto a quello che avrebbe potuto avere senza la guerra. Si stima in un 1.300 miliardi, però sono stime molto approssimative. La stima concreta del costo della guerra è di 200 miliardi di dollari, quindi un decimo del PIL russo. Poi in termini di costi materiali, ovviamente ci sono state distruzioni di sistemi militari, di navi, di porti, di infrastrutture colpite dagli attacchi ucraini anche sul suolo russo. La Russia tuttavia ha mantenuto una capacità di esportazione importante, non ha avuto il crollo delle esportazioni che l'Occidente si aspettava per effetto delle sanzioni che sono state imposte, ha avuto una possibilità di continuare ad accumulare riserve in dollari nonostante le sanzioni, e questo è il punto di forza che ha permesso a Putin di continuare la guerra senza una grossa difficoltà dal punto di vista economico, mentre all'inizio si pensava che le sanzioni, la scarsa capacità produttiva dell'industria russa fosse un problema. La Russia è diventata ancora di più un sistema economico fondato e centrato sulla produzione militare, il sistema di produzione di armi si è rafforzato e concentra grandissime risorse, e come allo stesso tempo si concentrano le attività nell'estrazione di gas naturale e di petrolio come attività principale della Russia. Però questa continuità nella capacità di esportazione consente alla Russia di avere i margini per poter gestire anche la crisi economica, l'inflazione, la svalutazione del rublo e così via. In termini di riserve riserve di dollari, la Russia ha 600 miliardi, che sono tra le più elevate al mondo, dopo le riserve che hanno invece Cina, Giappone e Svizzera. Quindi abbiamo una dimensione economica, una solidità di risorse molto rilevante in questo contesto, che non è stato colpito in modo significativo dalle contromisure occidentali, dai sequestri nel sistema finanziario, dal sequestro di imprese russe, degli oligarchi e così via.